Capitolo 135. La morte di Ifito. Quando Eracle ritornò a Tebe dopo le sue fatiche, diede in sposa la propria moglie Megara, giunta ai 33 anni, al suo nipote Auriga Iolao, che ne aveva soltanto 16, perché sosteneva che la sua unione con Megara era stata infausta. Si mise poi alla ricerca di una moglie più giovane e di migliore auspicio, e saputo che il suo amico Eurito, un figlio di Melanio, re di Ecalia, aveva offerto la propria figlia Iole in sposa all'arciere che fosse stato capace di superare in una gara lui stesso e i suoi 4 figli, subito partì a quella volta. Eurito aveva ricevuto in dono un bellissimo arco da Apollo e il dio gli aveva insegnato pure a usarlo. Infatti egli si vantava di superare il maestro. Tuttavia Eracle vinse la gara senza difficoltà. Eurito ne fu assai amareggiato e quando seppe che Eracle aveva ripudiato Megara, dopo averne ucciso i figli, rifiutò di concedergli Iole in sposa. Bevuto molto vino per darsi coraggio, disse a Eracle: «Tu non avresti mai potuto gareggiare con me e con i miei figli se non avessi usato slealmente delle frecce magiche che vanno dritte al bersaglio. La prova dunque non è valida e in ogni caso non affiderei mai la mia amatissima figlia a un ruffiano come te. Sei lo schiavo di Oristeo e in qualità di schiavo meriti soltanto calci da un uomo libero». Così dicendo cacciò Eracle dal palazzo. Eracle non rispose per le rime come avrebbe potuto fare, ma giurò di vendicarsi in seguito. 3 dei figli di Eurito, e cioè Dideone, Clizio e Tossio, avevano appoggiato il padre nelle sue disoneste pretese. Il maggiore, invece, che si chiamava Ifito, dichiarò che, secondo giustizia, Iole avrebbe dovuto essere data in sposa a Eracle. E quando, poco tempo dopo, 12 giumente dai solidi zoccoli e 12 vigorose mule sparirono dall'Eubea, rifiutò di credere che Eracle fosse l'autore del furto. Gli animali, in verità, erano stati rubati da Autolico, ladro ben noto, che per opera di magia ne alterò le fattezze e li vendette all'ignaro Eracle come se fossero di sua proprietà. Ifito seguì le tracce delle giumente e delle mule e si accorse che si dirigevano verso Tirinto. Ciò gli fece sospettare che Eracle, dopo tutto, avesse voluto davvero vendicarsi dell'insulto di Eurito. Trovatosi all'improvviso a faccia a faccia con Eracle, celò i suoi sospetti e si limitò a chiedergli consiglio. Eracle non riconobbe gli animali dalla descrizione che gliene fece Ifito e con la consueta generosità promise di aiutarlo a cercarli se Ifito avesse accettato la sua ospitalità. Tuttavia comprese che lo si sospettava di furto e ciò urtò il suo cuore sensibile. Al termine di un sontuoso banchetto, egli condusse Ifito sulla torre più alta di Tirinto. «Guardati attorno», l'intimò, «e dimmi se vedi le tue giumente pascolare qua sotto». «Non le vedo», ammise Ifito. «Allora mi hai falsamente accusato in cuor tuo di essere un ladro», urlò Eracle e lo gettò giù verso la sua morte. Eracle poi si recò da Neleo, re di Pilo, e gli chiese di essere purificato. Ma Neleo rifiutò, perché Eurito era suo alleato. E nessuno dei suoi figli, salvo il più giovane Nestore, acconsentì a ricevere Eracle, che infine persuase Deifobo, figlio di Ippolito, a purificarlo ad Amicle. Tuttavia, perché era ancora tormentato da incubi notturni, Eracle si recò dall'oracolo di Delfi e chiese come potesse liberarsene. La pizia Senoclea rifiutò di rispondere a quella domanda. «Tu hai ucciso un ospite», disse, «io non ho voce per uomini come te. Allora dovrò io stesso istituire un oracolo», gridò Eracle. E tosto spogliò il tempio delle offerte votive e gettò via persino il tripode sul quale sedeva Senoclea. «Eracle di Tirinto era un uomo ben diverso dal suo omonimo Canopico», disse la pizia con tono severo. Essa alludeva all'Eracle egizio che un giorno era giunto a Delfi e si era comportato in modo cortese e riverente. Apollo allora si levò indignato e lottò con Eracle finché Zeus non separò i due rivali con una folgore, inducendoli a stringersi la mano in segno di amicizia. Eracle restituì il sacro tripode e unitamente al dio fondò la città di Gizio, dove ora sorgono l'una accanto all'altra, nella piazza del mercato, statue di Apollo, di Eracle e di Dioniso. Senoclea diede poi a Eracle questo consiglio: «Per liberarti dal tuo tormento dovrai servire come schiavo per un anno intero, e il prezzo della tua schiavitù sarà offerto ai figli di Ifito. Zeus è furibondo perché hai violato le leggi dell'ospitalità, né vale come scusa la provocazione». «Di chi dovrò essere schiavo?» chiese Eracle umilmente. La regina Onfale di Lidia ti comprerà, replicò Senoclea. Obbedisco, disse allora Eracle, ma un giorno ridurrò in schiavitù l'uomo che ha fatto ricadere sulla mia testa questa sofferenza e con lui tutta la sua famiglia. Altri tuttavia dicono che Eracle non restituì il tripode e che quando, 100 anni dopo, Apollo seppe che era stato portato nella città di Feneo, punì i feneati ostruendo il canale che Eracle aveva scavato per farvi scorrere l'eccesso d'acqua piovana e allagò la città. È assai diffusa una versione del tutto diversa di questi avvenimenti, e cioè che Lico Leubeo, figlio di Posidone e di Dirce, attaccò Tebe durante una rivolta, uccise re Creonte e usurpò il trono. Convinto che Eracle fosse morto, tale notizia gli era stata data da Copreo, Lico cercò di sedurre Megara e poiché essa gli resisteva l'avrebbe uccisa con i suoi figli se Eracle non fosse ritornato dal Tartaro appena in tempo per vendicarsi di Lico. Ma Era, che prediligeva Lico, fece impazzire Eracle. Egli uccise allora Megara e i propri figlioletti e anche il suo amante Letolo Stichio. I tebani, che mostrano ancora oggi le tombe dei fanciulli, dicono che Eracle avrebbe ucciso in quella circostanza anche il suocero Anfitrione, se Atena non gli avesse ridato il senno picchiandogli sul capo una grossa pietra, e la indicano aggiungendo «L'abbiamo soprannominata Castigatrice». Anfitrione, in verità, era morto molto tempo prima, durante la guerra Orcomena. Gli ateniesi sostengono che Teseo, grato a Eracle, che lo aveva liberato dal Tartaro, arrivò in quel frangente con un esercito ateniese per dar man forte a Eracle contro Lico. Rimase come annichilito dinanzi a quella strage, tuttavia promise a Eracle tutti gli onori finché fosse vissuto e anche dopo la sua morte, e lo condusse ad Atene, dove Medea lo guarì dalla follia con potenti medicine, e Sicalo lo purificò di nuovo. Nella società matriarcale, il divorzio dalla moglie regale implicava la rinuncia al regno che costituiva la sua dote, e pare logico che, quando gli antichi pregiudizi si erano ormai affievoliti in Grecia, un re sacro potesse sfuggire alla morte al termine del suo regno abbandonando il trono e sposando un'altra ereditiera. Se le cose stavano così, il rifiuto di Eurito ad accettare Eracle come genero deve essere stato motivato non dall'uccisione dei figlioletti, vittime sacrificate annualmente durante il suo regno in Tebe, ma dal fatto che gli fosse venuto meno al dovere regale di morire. Conquistarsi la sposa dimostrando con una prova la propria abilità di arciere era un'usanza indo-europea. Nel Mahabharata Arjuna conquista così Draupadi, e nel Ramayana Rama tende il grande arco di Shiva e vince Sita. Inoltre, scagliare una freccia verso ciascuno dei 4 punti cardinali e una verso lo zenith faceva parte dei riti nuziali in India e in Egitto. È probabile che alcune giumente fossero sacrificate nel corso delle nozze tra Eracle e Iole, quando Eracle divenne re di Ecalia. Ifito, comunque, è il sostituto del re che veniva gettato giù dalle mura di Tebe ogni anno o in altre circostanze per placare qualche divinità irata. Eracle, che si impadronisce del tripode delfico, ricorda probabilmente una violazione del tempio compiuta dai Dori. Così come la folgore che scoppia tra Apollo ed Eracle ricorda una concessione fatta ad Apollo, e gli avrebbe potuto tenere il suo oracolo anziché cederlo a Eracle, purché servisse gli interessi dei Dori come patrono dei Dimani, una tribù che apparteneva alla Lega Dorica. Si sa che gli Spartani, che erano Dori, controllavano l'oracolo delfico in epoca classica. Euripide non parla dell'incidente del tripode nel suo Eracle, perché nel 421 avanti Cristo gli ateniesi avevano avuto la peggio nella pace di Nicea ed erano stati costretti a rinunciare alla sovranità focese su Delfi. Gli Spartani vollero farne uno staterello separato che essi stessi controllavano. Verso la metà del 4 secolo prima di Cristo, quando la disputa si riaccese, i focesi entrarono in Delfi e si impadronirono di parte dei suoi tesori per assoldare forze alleate, ma furono battuti e tutte le loro città distrutte. Il rimprovero della pizia è rivolto ai Dori, conquistatori del Peloponneso, che si dicevano figli di Eracle, ma non erano, nei riguardi della pizia, rispettosi quanto i loro predecessori achei, eolici e ionici, i quali avevano affinità religiose più con i libici agricoltori del delta egiziano che con i re pastori ellenici. La pizia che precedette Senoclea, Erifile, cara ad Era, era figlia di Zeus e di Lamia, e chiamata Sibilla dai libici sui quali governava. Cicerone conferma questo punto di vista quando nega che il figlio di Alcmena, cioè l'Eracle Predorico, fosse l'Eracle che combatté contro Apollo per il tripode. Si tentò in seguito, in nome del decoro religioso, di placare la rivalità tra l'Apollo focese e l'Eracle dorico, e Plutarco, che era un sacerdote delfico, insinua che Eracle era divenuto un veggente assai esperto e finse di impadronirsi del tripode in segno di amichevole antagonismo con Apollo. Quando poi descrive la vendetta di Apollo sui Fenei, con molto tatto tace il particolare che il loro canale era stato scavato da Eracle.